si fa presto a cantare, che il tempo sistema le cose. Si fa un po' meno presto a convincersi che sia così. Io non so se è proprio amore, faccio ancora confusione. So che sei la più brava a non andarsene via. Forse ti ricordi, e ci siamo mischiati la pelle, le anime, le ossa, ed appena